Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. È morto Harry Potter, lo sai, Kappa? Sì, è morto Harry Potter. Cioè, nell'ultimo romanzo muore? No, non esattamente. C'è su Repubblica, è uscita la notizia che c'è la tomba di Harry Potter, però si tratta di un Harry Potter, un omonimo, capito? Un soldato inglese morto in Israele nel 1939, a 19 anni. È una notizia questa. È un omonimo e la gallery di Repubblica si occupava di quello. Cioè, c'erano proprio tre foto della tomba vista da vicino, vista da lontana, e poi c'era la foto di Daniel Radcliffe, l'attore, che non c'entra niente, che uno pensa che è morto notizia. Lui. Esatto, questa è la notizia. Vabbè, ma se per questo è morto anche Silvio Berlusconi, sì. 57 anni, sì, omonimo del premio. Sì, è morto in un incidente di montagna, scivolato su una lastra di ghiaccio. Sì, lui era famoso. Era l'operaio, era l'unico Silvio Berlusconi operaio che ci fosse, si vantava. E adesso vedrai che Repubblica fa la gallery con cosa? Con la lapide di Silvio Berlusconi operaio, un click vista da vicino, un click vista da lontano e poi l'ultimo click, la foto del premier. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Ricreazione! Ricreazione. Però è quella del lunedì. Per forza, è lunedì, ricreazione del lunedì. È non quella può essere... più dimessa di tutte. Come dimessa? Ha dato l'dimissione. È dimessa. È lunedì e dimessa. Cioè, la ricreazione lunedì è una specie di placebo, non serve a niente. Io di lunedì mi sveglio al mattino già con quella strana voglia di strage, sai, quella di Bob Geldof, dei Boomtown Rats. Vabbè, ma di nuovo. Ma dai, smetti la capa. Tito, sono i Boomtown Rats. Non devi nominare questi gruppi sconosciuti, sennò Tito impazzisce. Comunque resta il fatto che di lunedì nemmeno la ricreazione dà sollievo, neanche a te, lo vedi, no? Guarda che faccia che hai. Insomma, dai. E quindi hai voglia di strage. No, io assolutamente. Sì, beh, se per quello... Oh, bambino Bradipo, come va? No, Bradipo, dai, per favore. No, perché, scusa, un po' l'aria del Bradipo ce l'hai, guarda. Sì, anche tu hai voglia di strage? No, più che altro io avrei voglia di dire due paroline al bambino Ciavoni, Oh, madonna, se ne è accorto. Ma pensare che per 10 giorni siamo riusciti a tenerglielo nascosto. Ma cosa volete nascondermi? I miei genitori leggono la Repubblica, Ah, beh, certo, genitori comunisti, Però non leggono quasi mai venerdì, e ora capisco anche il perché. Perché? Perché ci scrive quello lì, il Ciavoni. No, vabbè, ma guarda che a parte tutto, la recensione che ha fatto a Chiedo Asilo è una buona recensione, Ciavoni, fior di giornalista, di critico radiofonico, forse l'unico rimasto in Italia insieme a Gambarotta. E quindi... di solito è cattivissimo. Beh, con voi è stato bravo, ma con me no. Vabbè, ma succede, dai, bambino al Bamberg, non puoi piacere a tutti, Sì, vabbè, ma io ho letto il titolo e sono sobbalzato. Perché ho letto "Attenti a quei due e al terribile bambino Alberto". Era scritto così. "Attenti a quei due", che sareste voi, no? Sì. Ma poi c'è il mio nome. Vero, sì. Il terribile Alberto. Che leggendolo così... volendolo, sembrerebbe anche una cosa positiva. Cioè, terribile, no? Nel senso che sono simpatico, sì, o no? Leggendolo così distrattamente, sì, è vero. Ma poi invece, se leggi tutto l'articolo, c'è scritto che sono insolente, che ho la voce stridula. È vero. E che non sono mai divertente. Vabbè, questo. E mio padre, che ha letto l'articolo qualche giorno dopo, per caso, adesso ogni volta che mi vede... mi dice, mai divertente. Simpatico. Forte. Mia madre invece si è messa a piangere. Vabbè, addirittura, no, mica il caso. Ha cominciato a dire, meno male che c'è mio fratello, cioè l'altro suo figlio. Non tuo zio. E che lei, una figura così, col popolo della sinistra, proprio non se la meritava. Vabbè, ma quale popolo, quale sinistra? Ma che stranezze dice tua madre? Ma cosa, di cosa parla? Perché poi è venuta fuori anche la faccenda che la radio News and Talk, dove lavorate voi due, non è una radio, diciamo, rappresentativa del movimento operaio. No, proprio. È la radio della Confindustria. Quindi comunque, vabbè, ma c'entrano gli operai, scusa, no, Drago? Dai, aiutami. Perché è vero, le aziende sono fatte di dirigenti, impiegati e operai. Voglio dire quella comunista di mia madre. Per lei adesso io sono una vergogna assoluta, un figlio da dimenticare. Ma va, dai. Perché lavoro per i padroni e sono pure stato stroncato da Repubblica. Vabbè, dai, aspettiamo la stroncatura di Libero e del Giornale, almeno tua madre ti riabiliterà, sarai di nuovo l'idolo di tua madre. Beh, questa sarebbe un'idea, Vabbè, insomma. Ma riusciamo a far parlare male del programma su un giornale di destra? Vabbè, ci proveremo, dai, cioè, ci aiuta l'ufficio stampa. Vabbè, sì, sicuramente. Dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Sì, sì, spero che però, che parlino male del bambino Alberto e non di noi, perché sennò è inutile che esca la recensione. Speriamo. Però io mi chiedo, cioè, ditemi voi, cosa ho fatto io di male al bambino Ciavone? Ma niente, ma non si fanno queste cose, non si sta lì a guardare le recensioni buone o cattive, insomma, lascia perdere. Forse non t'ha capito, Ciavone. Magari non ha prestato abbastanza attenzione a tutti quei messaggi spessi che arrivano da te ogni volta che parli, capito? Spessi, messaggi di destabilizzazione dello status quo, è questo quello che fa. Sì. Messaggi di scorrettezza politica, caro bambino Albertazzi, in un mondo gelatinoso fatto di Fabio fazzismo dilagante. Bravo, bravo caro. Ma cosa dice? Non si capisce un tubo? No, vabbè. Questo parla come Ciavone. Vabbè, sì, non sta immaginando una specie di recensione che Ciavone avrebbe dovuto scrivere se avesse capito davvero chi eri, no? Messaggi di ingenuo disvelamento della nudità del re, messaggi degni di un Candide moderno, di una Mafalda al maschile, di un Peter Pan dispettoso e tagliente. Bravo capo. I messaggi del bambino Joshua Tree colpiscono il bersaglio e si fanno ricordare. Questo doveva scrivere. Bambino Joshua Tree? Sì, Joshua Tree vuol dire Giosuè albero. No, beh, è un cactus, quindi l'albero di Giosuè. Giosuè, l'albero di Giosuè, non Carducci, no, quindi non è bambino Bibbia. Carducci, no. Bambino Joshua Tree perché albero Tri, Alberto, quindi Alberto, sì, Albero Tri, Joshua Tri, sì, giusto. Tito, dai. Forse alla fine allora è meglio Ciavone di Kappa, eh. Almeno quello là scrive sui giornali che le sono ste. Vedi, anche in dialetto, eh. Alla mattina, con le vensù, Ciappa del giornale, se il piccherin del... è Ciavone, eh. E ora, bambini, tutti a casa. Ma se tu dovessi scegliere tra dirigere il TG4... e organizzare i Bunga Bunga, tu che cosa sceglieresti? Perché dovrei scegliere? Scusa, fai tutte e due, si può fare tutte e due, eh. Sì, bravo, poi fai tutte e due le cose male. Ma perché? Fai un TG4 che fa cagare e dei Bunga Bunga in cui circolano ragazze poco raccomandabili. TG4 dai. Fa cagare comunque. Vabbè, bisogna segmentare, specializzarsi. Uno dirige il TG4 e un altro organizza i Bunga Bunga. Ma chi? Ci sono i vari Liguori e Giordano che sono lì a far niente. Ma no, ma è un casino, Drago, non si ma può. Ma sì che è un casino, Liguori, si è capito. Dai, come fai a dividere i lavori? Perché poi si creano dei malumori, tra quella gente lì. Se togli il TG4 al direttore del TG4 perché deve organizzare al meglio i Bunga Bunga, poi quello lì si incazza, fa l'offeso e comincia a minacciarti. No, vabbè, e poi dice guarda che poi racconto tutto, e quindi è complicato, non so. Forse hai ragione, sono tutti attaccati al Cadreghino. Anche se i Cadreghini sono due o tre o quattro, certa gente è come se avesse due, tre, quattro culi e riuscisse a star seduta contemporaneamente su due, tre, quattro cadreghini diversi. Questa storia dei due, tre, quattro culi, attento a farla girare perché c'è gente sensibile. Molto interessante. Comunque io sceglierei il TG4. Ecco, questo io è interessante. Perché? Ma scusa, perché almeno seria, lo sai quello più... che devi fare. No, perché tutti i giorni sai che devi fare le tue due, tre edizioni del TG e boh, no? Per i Bunga Bunga è possibile che magari tu sei lì alle 10 che in pantofole a casa sul divano stai guardando la TV e ti suona il telefono e di colpo, tac, devi organizzare un Bunga Bunga per mezzanotte alle 10 di sera, così. perché Bunga Bunga è una roba nascono così spontanei come i rave, certo. Esattamente come i rave. Posto e allora segreto, immagini tu sei lì alle 10, tu avevi già pensato di andare a letto, insomma. Vabbè, eri già... alle 10, ma vabbè, insomma, sei l'organizzatore di Bunga Bunga, vabbè, avrai sei 80 anni magari a letto alle 10 ci vai, no? Sai che sbattimento? E allora alle 10 chiama le tipe, organizza le macchine, la polizia, avverti la servitù della villa, recupera PC. Vabbè, dove sono le divise da poliziotta, le avevo date a quello, no, ma le tengono tutte quelle in da armadio, infermiera, portati lo sfigmo manometro. È un casino, Drago, le buste, i gioielli, poi il regalino, quella, il regalino l'ha già avuto, il menù, il DVD con le gesta del premier Obama, farlo, è un casino alle 10. Non è che lo può far chiunque una roba così, un lavoro così lo deve fare uno in gamba, uno che non fa il TG. Non so, te lo vedi il bambino Mario Giordano alle prese con un Bunga Bunga da improvvisare alle 10? Non è credibile, non si può. Pronto, Nicole? Ma questo chi è? Giordano? Sì, stasera Bunga Bunga, per la musica ci penso io e metto sui Deep Purple. Ah, roba moderna come per Lucigno, bravo. E per il resto, Nicole, mi raccomando, pensaci tu. Che è meglio, perché se ci pensa Giordano... E mandi i chierichetti. La salsa pariglia, panini illustrati, giornali imbottiti, la panna montata. Basta così, comunque mandate i vostri tatatatatata alternativi a chiedosilo@radio24.it.